I can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, can't you see? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Better run, run, run, run, run, run, run away. Oh, psycho killer, can't you see? Fa fa fa fa fa fa fa fa. Psycho Killer, qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa, eccetera. Allora, i grandissimi Talking Heads. Allora, volo, mi getto, mi tuffo all'interno dei vostri messaggi. Allora, comincio. L'altro, oggi è la giornata dei messaggi, e anche a Rock TV. D'altro, concedetemi qualche secondo per ringraziare ancora una volta tutto lo staff di Rock TV per averci nuovamente ospitati all'interno della loro programmazione, all'interno del programma Database, per averci dato questa opportunità di poter parlare di Rock FM, soprattutto della chiusura di Rock FM, anche se vedendo quanto in realtà alcuni telespettatori di Rock TV fossero interessati, dispiace un po', perché dici, cavolo, ci hanno appena scoperto e già sono costretti a salutarci. Vabbè, comunque ancora un ringraziamento a tutto lo staff, insomma, per averci ospitato, aver dato questa opportunità. Credo, prendevamo contatti che ci verranno a trovare nella 24 ore finale, che vi ricordo sarà il 30 di maggio a partire dalle 18. Tra l'altro, tra queste cose ci potrebbe anche essere, visto che qui una nottata la fanno tutti, volete che non la fa il DJ Edo? E probabilmente il mio appuntamento notturno sarà il 27 di maggio. Stiamo studiando la Nottedo, che partirà naturalmente a mezzanotte, nella quale condurrò trasmettendo i miei dischi, ma proprio quelli che porterò io da casa. Gli farò fare il viaggio da Chiavari a Milano e li porterò qua, vinili e cose di questo tipo, della mia personalissima discografia, oltre naturalmente al fatto che, essendoci lo studio allestito per jam session e cose di questo tipo, non sarà difficile, anzi sarà facilissimo benissimo che ci scatti la jam session notturna, quindi puntate le sveglie o quantomeno segnatevelo sul calendario il 27 maggio Nottedo con il DJ Edo su Rock FM. Allora, dunque, rispondo un po' di messaggi, dicevo, un saluto a Lucy da Castel Bolognese che dice: ciao, ho ancora un livido sul braccio fatto a Russi al concerto della Rock FM Stars Band il 1° maggio. Che meraviglia. Fa piacere che, insomma, a noi piace lasciare il segno, ci dispiace che i segni li dobbiate portare sul vostro corpo, però comunque fa piacere lo stesso. Cerco ragazzo amante degli Smashing Pumpkins, me lo trovate? Ma sì, ora ci mettiamo a fare anche un po' di agenzia matrimoniale. Un saluto a Mick. Poi dunque c'è Minti che dice: c'è il sole e ho sulla t-shirt che avevo a Russi, mangio un gelato liquirizia mandorla e crema catalana e ti ascolto sull'MP3 radio, il mondo è bello almeno fino al 31 di maggio. Sulla t-shirt del bimbo davanti a me c'è scritto It all begins again. Sarà un buon augurio, ma speriamo, naturalmente vuol dire tutto ricomincia ancora, ma chi può dirlo, speriamo. Un saluto anche al grande Gibson 69, naturalmente non perdetevi le foto fatte agli eventi di Rock FM sul suo MySpace. Poi dunque, domani sera ci attaccheremo alle tue gambe finché non ci darai le magliette della Rock FM on Stars Band, siamo pronte a sanguinare, devi ammettere che ce le meritiamo. Rock Kiss da Purple Bat e Isterica con Stile, bene, vedremo che si può fare, insomma le magliette ci sono, le abbiamo fatte fare, basta comprarle. Poi un saluto anche a chi invece si lamenta un po', per esempio Lorenzo che si lamenta un po' di Firenze, dice: ma perché a Firenze non si organizza mai niente di ganzo? Beh, comunque dai, lascia perdere che Firenze è già un posto dove si riesce a organizzare di più che dalle altre parti, infatti dice viva la Flog, e ne approfitto per ricordarvi l'appuntamento con Max e Ariel che suoneranno dopo i Pancreas proprio alla Flog il 10 di maggio, esattamente il giorno dopo la data della Rock FM Stars Band a Milano. Lo sborone dice: ma noi in Italia abbiamo Edo Rossi che non è ricco ma come chitarrista capirai, grazie comunque lo sborone per la fiducia. Un saluto a Cyberpunk da Peccioli invece che mi dice: ma il 24 di maggio al Gens di Pontedera a che ora inizierete a suonare? Non ne ho la più pallida idea, caro Cyberpunk, in genere lì i concerti iniziano un pochino dopo, tipo 22:30, una cosa del genere. Saremo naturalmente più precisi su tutti i nostri MySpace, che ne approfitto per ricordare: myspace.com/edorossi il mio, oppure myspace.com/rockfmband, quello della nostra band aziendale. Ale dice: domani ci sono con tutta la famiglia. Bene, grazie mille Ale, speriamo di incontrarci almeno per farci un saluto e darci un abbraccio. Poi Tino dice: come al solito Mox Precisetti Cristadoro ha detto una cosa giusta, si ribattezza la band e si riparte per il Welcome Back Tour. Bene, sarà una roba della quale magari parleremo naturalmente dopo il 31 di maggio e dopo questo farewell tour della Rock FM Stars Band. Un saluto anche a Lillo, pronto a prendere il treno delle 18:10, mi sa che ormai è sul treno e non sente la risposta. Poi Tasmin 78 da Viareggio dice: Mox sei un grande, basta lacrime, mordete il passato e fate le fusa al futuro, voi ed il rock mica sparite. Ragione Tasmin, faremo così. Poi un saluto anche a Sarvatio da Pisa che dice: ah, quando c'è una giornata brutta niente di meglio che ascoltare Rock FM, non so cosa farò dopo, spero di conoscervi il 24 a Gello, naturalmente spero proprio anch'io di potersi incontrare. Dunque aspetta, Nan dice: ma come? Facciamoci del male allora, mandate della musica così e poi chiudete, porca miseria, sono una rockettara sensibile, non fatemi del male. E poi c'è Marco che invece dice: salvo io la radio a condizione che Claudia mi sposi. Guarda che Claudia è disponibilissima a sposare chiunque sia intenzionato a salvare la radio, quindi fate un po' due conti nel portafoglio e poi Ho in sottofondo un grande amico di Rock FM, è venuto a trovarci qualche tempo fa, in realtà lunedì scorso, e ha dimostrato veramente di essere affezionato alla nostra emittente e noi lo siamo a lui. Questo è il suo nuovo disco, lui è il grandissimo Piero Pelù, questo è il suo nuovo singolo, si chiama Tutti Fenomeni. C'è festa intorno e io ci sto davanti, la mia testa gira tra luci sui incendi di mostre alla fragola. Siamo tutti fari e stelle ad occhi e punte, convinte e mimetiche, tutti con le chitarre strillanti di Saverio Lanza, chitarrista di Piero Pelù. Questa era Tutti i Fenomeni. Questa era Tutti i Fenomeni, il suo primo singolo, nel senso primo singolo del suo nuovo lavoro. Siete su Rock FM, la voce è quella di Edo Rossi. Allora, come noto, ogni tanto, anche se in questi ultimi tempi i vostri messaggi la fanno unicamente da padrone all'interno di tutti i nostri programmi, volevo provare ancora a darvi qualche informazione, come facevo, sai, quando facevo il programma Rock FM una volta, no? E niente, volevo parlarvi dei Police, che come sapete saranno a giugno al Heineken Jamming Festival, saranno lì nella terza serata, che come sapete hanno annunciato che questo sarà il loro farewell tour. Ora non credo che insomma sia la stessa cosa della Rock FM Stars Band, però insomma i Police hanno annunciato che appunto faranno ancora alcuni concerti e poi termineranno la loro attività, ed è stato annunciato che il concerto sarà fatto al chiuso e a New York. La data però è ancora da stabilire, però sono già stati pubblicati i siti sui quali eventualmente poter comprare i biglietti, quindi alla fine voglio dire vabbè, insomma è giusto che diano questo annuncio, però almeno cosa numero uno, dateci innanzitutto la data e poi dateci le coordinate per andare a prendere i biglietti, no? Tra l'altro i Police si sono saliti all'onore delle cronache anche per aver donato $1 milione al sindaco di New York Michael Bloomberg per la sua iniziativa legata alla possibilità di piantare dei nuovi alberi nella città di New York, insomma ovviamente cosa che rende che dà ancora una volta in più credibilità alla band di Sting e soci. Quindi naturalmente se riusciremo in onda a potervi dire quale sarà l'ultima data dei Police lo faremo, se no chi lo sa, magari cercheremo di aprire come al solito una come spesso annunciato una sorta di sezione di informazione musicale anche sul nostro rockfamily.it, o comunque non dimenticate c'è sempre il mio blog edorossi.blogspot.com, che mio malgrado avrò più tempo per aggiornarlo, e quindi non mancherò di tenervi informati anche sui Police, che andiamo a riascoltare con Fallout. Was made for loving you, baby. Questa canzone dei Bon Jovi, Born to be my baby, dice: sei nata per essere la mia bambina. Un po' come un po' hanno invertito, hanno capovolto un po' la quello che era la canzone invece dei Kiss di qualche tempo fa, che diceva: io sono stato fatto per amarti, baby, una roba del genere. Allora, siete su Rock FM, la voce di Rock Family, la voce che ascoltate in questo istante, come tutti i giorni, dal martedì al venerdì, dalle 17 alle 19, quella di Edo Rossi. Allora, un saluto a Sergio da Genova, che dice: porca miseria, sono sempre puntualissimo sul lavoro, oggi ho tardato perché mi sono fermato ad ascoltare quando eravate tutti insieme in onda. Si riferisce al collegamento che abbiamo fatto prima con Max Deriu, in realtà non un collegamento ma un intervento che abbiamo fatto con Max Deriu poco fa, con tutta la Rock FM Star, tutti i membri della radio della Rock FM Stars Band in onda, e dice che il capo non l'ha presa molto bene. Mi dispiace, però grazie Sergio per la fedeltà. Un saluto a Carlitos da Lugano. Ugo che invece dice: non datele via tutte le magliette prima del 31, che ne voglio una anch'io, vengo là quasi solo per quello. Bene, ok, grazie Carlitos. Sì, probabilmente, magari se non le finiamo tutte, appunto, magari avremo ancora le magliette qua il giorno della chiusura. Poi un saluto a chi mi scrive: passate dalla Romagna, passa anche dalla Romagna il tour della band. Che dire, eh? Non lo so, però voglio dire, siamo stati a Russi la settimana del 1° maggio, però chi lo sa, magari torneremo, chi può dirlo, chi lo sa. Insomma, il Farewell Tour è ancora due date, appunto il 9 di maggio a Milano, il 24 all'Area Gens di Pontedera, poi chi lo sa, domani, non lo so, forse sotto altro nome, non lo so, vedremo. Comunque tenetevi informati su rockfamily.it. poi un saluto anche a Lara che dice: no Edo, ma fai la notte di martedì. Vabbè, vorrei dire che il 27 maggio non vado a letto per niente, e poi alle 6:30 mi preparo per andare al lavoro. Grazie Lara, ovviamente mi fa molto piacere. Un saluto allo Sborone, grazie, un abbraccio anche a te. Un saluto a Renna, anche lui insieme alla moglie pretende le magliette della band, visto che all'Alcatraz, in occasione della festa del 6 ottobre, non è riuscito ad accaparrarsene neanche una, e che tra l'altro sono state dilapidate così, un po' alla, come dire, vabbè, lasciamo perdere. Poi un saluto a dunque Lambert da Forlì, che dice: perché non trasmettete le feste in diretta radio? Perché ci vuole un po' di attrezzatura e ci vuole personale in radio, ci vuole fuori, è una cosa piuttosto complicata, spesso ci avevamo pensato, ma è comunque una cosa non proprio semplice da eseguire. Poi un saluto anche a Toki, che dice: secondo me hanno detto chiudiamo Rock FM, tanto c'è già Radio Maria che spacca di brutto. Ma bravi, grazie Toki. Un saluto, saluto ancora Renato da Genova, che chiede qual era il sito relativo alla notizia di Brian May che starebbe per salvare una radio inglese. Credo di averlo letto su enemy.com, per intenderci New Musical Express. Poi ancora un saluto alla mitica Franci da Firenze, un saluto anche a Fefo, detto il Monsignore, dice: saluti a tutta la Rock Family, un bacio alle bimbe, stavolta non in veste di Monsignori, di Monsignore, ma nelle mie. Bravo Fefo, signori e signore, ora i Clash. you know what they said? Some of it was true. Running and calling at the top of the